de lontano, tirata al mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare, fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano, quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare, dal primo amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un tango italiano, un dolce tango, ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore lontano. Ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano.